spoglie di novio e di pastore, qui t'admeto nel gregge, condannato così dal re dei lumi. Fu veder se Durilla, qual in Daphne d'inclizia all'amor mio, prova del barro sordo l'ostinato, pieno di sprezzo, o vinta resti al fine dall'uso di quell'arte che all'esser deità.